Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Tra l'altro qualcosa che ci fa bene ed è anche buono, esatto. E fa bene anche all'ambiente, cioè abbiamo fatto bingo. Invece le patate al cartoccio me le salva, Te le salvo le patate al cartoccio. Vede, meno male, era un attimo che prendevo un inciampo. Buongiorno, buona domenica. Abbiamo iniziato con il colore. Che colore c'è sulle vostre tavole? Intanto alla tavola della bufala in tavola noi abbiamo una meravigliosa tovaglia rossa. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola. La noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era là. Ama del castello, il tuo è un rosso relativo. E il nostro rosso è relativo al peperoncino. Proprio la settimana scorsa ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Cirino, docente di farmacologia all'Università Federico II di Napoli, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Professore, lei ha scatenato il delirio perché ha sfidato il popolo della bufala in tavola e i nostri amici hanno risposto. Ricordiamo la sfida per chi si fosse collegato, si può sempre recuperare solo oggi con noi. Vi accettiamo, c'è posto. Professore, allora, mi verrebbe da dire, allora, che le è venuto in mente? Era stata lanciata su una base un po' culinario culturale, nel senso che noi avevamo chiuso dicendo che il peperoncino contiene la capsaicina, questo principio attivo, abbiamo detto un po' a cosa serve, avevamo chiuso anche con una nota divertente dicendo che se uno scrive peperoncino e sessualità escono 630.000 pagine su internet, e avevo chiuso dicendo che uno dei piatti più difficili da fare è aglio, olio e peperoncino. Avevamo spiegato che l'olio ne avete già parlato altre volte, dell'aglio sono note le proprietà curative, e c'era il peperoncino. Quindi abbiamo sfidato le persone a mandare queste informazioni. E allora, professor Cirino, si fermi lì perché ne abbiamo sentite di tutti i colori. Andiamo, abbiamo dovuto fare una selezione perché erano tanti. Intanto vi ringrazio. Spaghetti aglio, olio e peperoncino con pan grattato, con acciughe, con tonno. Spaghetti aglio, olio e peperoncino con alici, con capperi, con zafferano. Professor Cirino! Ah, e allora qua c'è un ben di Dio! Inizierei con una gradazione scientifica, capperi, zafferano, acciughe, lascerei per ultimo il tonno, le briciole di pane come il tarallo sbriciolato non è che abbiano grandi proprietà curative, sono ottime per l'amalgama tecnico. Allora, parliamo dei capperi per esempio, no? I capperi sono molto ricchi per esempio di beta-carotene, flavonoidi, hanno questa azione tipo antiossidante, contengono in particolare tre cose, i nomi sono un po' complicati, quercetina, rutina e canteferolo, che hanno questa azione antinfiammatoria. Cioè chi ha proposto il cappero ha proposto una cosa che ha attività antinfiammatoria e antiossidante, va nella direzione di antiossidante. Fra l'altro i capperi noi li mangiamo normalmente e li possiamo aggiungere perché hanno un certo grado di salatura, sono quindi ricchi di sostanze antiossidanti, e va detto che però, questo lo dico solo per i capperi, per una questione di informazione scientifica corretta. Se uno fa una ricerca trova che hanno queste azioni, e poi si dice che ci sono gli studi clinici. Allora dovete considerare uno studio sui capperi. L'estratto di cappero che veniva preso generalmente era 1200 mg, significa un grammo e due al giorno per due mesi. Ora, ovviamente, spesso certo. e volentieri vengono inferite proprietà con una dose inferiore, però questo ci riporta al peperoncino, però. Che invece che è un po' la nostra ossessione, è la nostra ossessione di oggi. Perché ci riporta al peperoncino? Perché la capsaicina, di cui la lingua è un sensore, che è il principio certo. attivo, si sente subito. Quindi il cappero va bene. Chi ha suggerito i capperi nella ricetta ha suggerito un additivo, diciamo, di tipo antiossidante, ed è, come dire, abbastanza interessante. Giusto una cosa, così, che penso lei sappia, che i frutti maturi si chiamano cucunci, sono quelli che si danno negli apericena, sono quelle cose con abbastanza grandi, sì, dei capperoni, si chiamano cucunci, si usano nell'apericena, e quella sarebbe carina come una pericena antiossidante, se vuole. Ecco, allora, il cappero, ho capito che ha fatto centro, sono stati tanti, devo dire, gli amici che hanno suggerito il cappero come ingrediente aggiuntivo del nostro mix da cui siamo partiti. Piace, lei l'ha citato, mi sembra anche lo zafferano. Professore, ci fermiamo, così spezia più spezia, vediamo che capita. Ci facciamo una piccola pausa, intanto voi raccontateci che cosa state preparando. Magari sentir parlare di aglio, olio, peperoncino, con tarallo, con pan grattato, magari con qualche aggiunta di cappero, chissà. Vi state sfiziando? Restate con noi, scriveteci, mandateci i vostri menù. La bufala in tavola. Aglio, olio, peperoncino e... Avete risposto in tanti alla sfida lanciata la scorsa domenica dal professor Giuseppe Cirino, che oggi abbiamo naturalmente richiamato perché gli abbiamo chiesto di commentare i vostri suggerimenti, le vostre aggiunte. 10 lode a chi ad aglio, olio, peperoncino aggiunge i capperi. Il professor Cirino ne ha sottolineato il potere antiossidante, ma professore, mi sembra anche intrigante l'aggiunta dello zafferano. Eh sì, perché lo zafferano, diciamo, se uno va a pensare, va un po' a guardare in giro, trova che addirittura ci sono dei trial clinici in cui è stato studiato il principio, diciamo, il principio attivo, ciò che viene estratto dallo zafferano, per dirlo in maniera semplice, e ha mostrato un'efficacia antidepressiva, quindi, diciamo, un potenziamento col peperoncino, un qualcosa un po' più di piccante. Se uno si sente un po' giù, un po' triste, un po' Covid, come dico io, un po' pandemico, aglio, olio, peperoncino e zafferano lo tirerà sicuramente su. E poi c'è la parte, diciamo, anche di atmosfera, per come dire, rimbancare la giornata, la serata, il pranzo, il momento. Lo zafferano è anche indicato nella disfunzione erettile e quindi ha questo fatto, insomma, praticamente è una bomba molto costosa, costa molto, tra i 20.000 e i 30.000 euro al chilo, e quindi ha anche questo fascino particolare, però ha questa azione. Professore, il meraviglioso zafferano dell'Aquila, anche noi in Italia abbiamo delle coltivazioni di zafferano. Lei naturalmente ha sottolineato anche sempre un po' l'aspetto come quello del peperoncino intrigante, insomma, aiuta anche l'amore. Aiuta anche l'amore, brava. Ecco, aiuta anche l'amore. Vero? Ecco. Allora, in linea con noi è tornato a trovarci il nostro amico Roy Paci, trombettista, compositore, produttore discografico, creatore della gastrofonia. Mi fermo, Roy, non ho più parole. Buongiorno a tutti. Ci vorrebbe un po' di peperoncino. Grazie, Roy. Il peperoncino va bene dappertutto, guarda, è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda. Tu te lo sei fatto anche tatuare, ci hai raccontato. Sì, io c'ho un tatuaggio sull'avambraccio della formula della capsaicina. Ecco, una formula che il professor Cirino, che abbiamo abbinato con te, abbiamo creato una coppia, conosce a memoria, e di cui ci ha raccontato le meraviglie. È un onore essere stato invitato, dove ho sentito appunto parlare il professore in maniera proprio... è bello che anche, diciamo, le persone che ne capiscono hanno, diciamo, un rispetto per questo ingrediente che, per quanto mi riguarda, risulta poi veramente fondamentale anche all'interno di una dieta mediterranea. Senti Roy, voi dovete fare adesso, quando finirà questo periodo, dobbiamo incontrarci e dobbiamo farci un aglio, olio e peperoncino come si deve, e sì, insieme a Roy Paci e al professor Cirino, perché dovete incontrarvi assolutamente, professore. Sicuramente faremo una serata, diciamo, in cui parleremo di peperoncino, ma sarà una serata dove, come dire, nella vita la musica, il cibo, l'atmosfera si crea con il cibo, la musica, e poi c'è il terzo convitato che è il vino e che quindi tecnicamente, vedi, si sposa poi con tutti i resti. Vedi, va bene, il vino lo porto io, dai, facciamo ecco. Roy, possiamo, come dire, creare una speciale atmosfera per celebrare il peperoncino. Roy, ma che musica è il peperoncino? È una musica abbastanza energica, scoppiettante, che ti stuzzica, che ti fa ballare sicuramente, che ti fa divertire, che ti fa sorridere, e soprattutto, ecco, nell'amore, come diceva anche prima, parlavate con il professor, nell'amore io penso che quello che crea, a parte, diciamo, il principio anche un po' vasodilatatore del peperoncino stesso dal punto di vista scientifico, è anche crea quella carta che si gioca della, come si dice, dell'imprevisto, no? Perché il piccante ti mette in una situazione anche di agitazione. Se sai controllare questa agitazione della piccantezza e la condividi con il proprio partner, secondo me si innesca una magia molto particolare. Quindi è questo anche il peperoncino, no? Professore, lascio a lei il commento. No, dico, il peperoncino, come dire, è, come dire, la cosa più divertente, l'ho detto l'altra volta, viene considerato il Viagra naturale, quindi questo già di per sé riassume tutta quanta, diciamo, la parte, diciamo, di immaginario collettivo, ma che il peperoncino sia, come dire, il piccante della vita, ecco, e che abbia una sua dimensione erotica, per me è un fatto certo. Ecco, come a dire, è una musica. Il nostro peperoncino, la musica del nostro peperoncino, Medicine Man, Roy. Sì, io sono il Medicine Man, con il che mi giro così nel mondo con il peperoncino in mano e la tromba dall'altra parte. Ci piace, ci piace. Grazie, grazie a Roy Paci che è tornato a trovarci, grazie al nostro prof, il professor Cirino, che ci ha sfidato con questa gustosa e stuzzicante, intrigante sfida. Ci sentiamo prestissimo, e quindi aglio, olio, peperoncino, ma l'importante è che ci sia il peperoncino. Grazie ad entrambi, a presto per un aglio, grazie, olio e peperoncino. Buona giornata, ciao. Facciamo posto alla nostra prossima ospite, la dottoressa Sara Farnetti, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno. Specialista in medicina interna, esperta in nutrizione funzionale medica. Ricordo il titolo di uno dei suoi libri, Le ricette funzionali. Dottoressa, abbiamo parlato di musica, di peperoncino, di mix, insieme a Roy Paci e al professor Cirino. E torno con lei proprio a parlare di musica, perché lei, nelle sue interviste, nei suoi libri, sottolinea una cosa molto bella, e cioè che in ogni piatto bisogna ricomporre un po' un'armonia, un equilibrio, insomma un po' come le note compongono la melodia, anche l'abbinamento di prodotti, di sostanze nutritive contenute nei prodotti deve comporre una melodia salutare, un balsamo, direi, per la nostra salute. È corretto, dottoressa? Meraviglioso, Nichetta, sembra un'ode. No, troppo, è troppo gentile, ma io sono molto felice che lei sia qua con noi. È vero, perché al di là della composizione del pasto, ogni pasto, dico sempre, realizza un progetto ormonale, quindi l'esigenza di saper combinare gli alimenti serve proprio per cercare di rendere quell'alimento che mangiamo, quella composizione nel nostro piatto, funzionale al nostro organismo. Che significa funzionale? Che deve mettere i nostri organi nella capacità, nelle condizioni di funzionare meglio. Gli organi non è un organo, sono gli organi, è un concerto, quindi abbiamo il fegato, il pancreas, abbiamo la tiroide, abbiamo il rene e poi tutti gli organi che rispondono a questi. Ergo, se noi sappiamo cosa mettere nel nostro piatto, guadagniamo salute più volte al giorno. Ovviamente tutti siamo diversi, quindi c'è un sistema più adatto per tutti, ma esistono anche delle sinergie, delle composizioni, come dicevi tu, quindi delle associazioni che sono più funzionali di altre, certe che non funzionano proprio, non funzionano affatto. Possiamo dire stonate. Allora, da che cosa partiamo, dottoressa? Da quelle che funzionano o da quelle che invece sono stonate? Per esempio, adesso va molto di moda la detossicazione, e quindi facciamo degli abbinamenti detossicanti. Con detox si intende una funzione accelerata dell'organo che è più importante per noi, che è il fegato. Il fegato, quando funziona, mette anche nelle condizioni il nostro intestino di funzionare meglio. Quindi, per esempio, se noi consumiamo a cena qualcosa che sia di aiuto per il nostro fegato, ma non lo mandi a dormire, perché a dormire dobbiamo andare noi a cena, non i nostri organi, che devono però funzionare bene. Quindi, per esempio, mangiare i carboidrati, come abbiamo più volte raccontato, a cena, combinati in modo intelligente e preparati in modo tale da farli funzionare bene, può essere una situazione detox. Per esempio, la pasta che insomma la fa da padrona in Italia, lessata al dente e mantecata in un po' d'olio con il pomodoro e seguita da un piatto di verdura amara. Adesso abbiamo la cicoria, per esempio, che è famosa. La cicoria ripassata, quella che si mangia a Roma. Oppure in questo momento abbiamo le puntarelle, verdure amare, comunque di aiuto alla funzione biliare. Che cosa ci regala? Sicuramente che la pasta è meno zuccherina, perché l'abbiamo lessata e ripassata e cotta al dente prima, naturalmente, e ripassata in olio. Quando ripassiamo in olio, non solo il fegato lavora più velocemente, ma abbiamo una riduzione della quantità di carboidrato che riusciamo ad assorbire. Ovviamente abbinandola ad una verdura amara come la cicoria, che insomma a Roma è cicoria ripassata, ma ormai la troviamo in tutta Italia, ma anche le puntarelle, che non sono ormai solo regionali, sono di questa stagione, le troviamo nel territorio, sul mezzo tutto il territorio nazionale, sono verdure amare che rendono più facile la funzione epatica e quindi dormiamo meglio, ci riposiamo bene, ci svegliamo al mattino non con gli occhi gonfi, siamo in grado di dire che abbiamo compiuto un lavoro buono, e quindi il fegato l'ha fatto per noi, nel nostro organismo. Ecco che allora possiamo ricordare che la differenza non la fanno solo gli alimenti, ma come li associamo e come li prepariamo. Nelle preparazioni troviamo un grande alleato, e un po' tornando alle note, la nota di per sé non è giusto o sbagliata, ma è come la combiniamo nel pentagramma e, se vuoi, anche chi la suona. Non è lo stesso spartito per la batteria e né quello per il violoncello. Dottoressa, questa è musica. Tra l'altro, lei scrive nel suo libro che i tre pasti sono come tre note che devono essere per l'appunto suonate insieme. Abbiamo parlato del pasto serale, ma la dottoressa Farnetti, subito dopo la pausa, ci racconterà, ci darà degli abbinamenti da privilegiare per la colazione e per il nostro pranzo. A tra poco. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. se volete ascoltarle dal lunedì al venerdì alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. La bufala in tavola. Fermi lì, cosa state mettendo nel piatto? Raccontatecelo, che cosa state abbinando? Perché di abbinamenti stiamo parlando con la dottoressa Sara Farnetti, che è in linea con noi. L'abbiamo fatta sedere a capotavola, ci sta svelando che non basta preparare un alimento, ma bisogna saperlo anche accompagnare. Dottoressa Farnetti, per esaltare magari le capacità, il potere salutare delle sostanze che contiene. Ci sono degli abbinamenti che funzionano un po' come le coppie, altri che fanno un pochino più fatica, altri che non funzionano proprio. Dottoressa Farnetti, noi siamo partiti dalla cena, una cena che per conciliare un buon sonno, ma anche per favorire una buona digestione e quindi permettere i nostri organi di lavorare in pieno benessere. Lei dice che tutti i tre pasti devono, come tre note, devono essere suonati insieme. Allora, abbinamenti intelligenti e salutari per la colazione, per il pranzo, dottoressa? Assolutamente è vero, anche se, e qui mi contraddico, dipende dalla persona. Ad oggi potrebbe valer la pena, nel periodo natalizio, anche saltarla la colazione. Ma perché? Perché la stiamo abbinando e combinando, se vuoi, o la leghiamo al pasto precedente dove la sera abbiamo abusato. È questa la sequenza che dobbiamo tenere, cioè ogni pasto cerca di migliorare, se può, in linea con l'altro, la condizione di salute, oppure deve recuperare. Okay. Quindi in quest'ottica è importante sempre capire la persona che lo sta gestendo quel pasto, che cosa vogliamo ottenere. Un primo obiettivo per tutti è sempre quello della longevità sana, quindi l'idea di avere una colazione che sia a basso indice insulinico, dove cioè non creiamo un'increzione di un ormone che ci fa infiammare, e quindi se va di moda te lo dico come colazione antinfiammatoria, deve essere non troppo dolce. Certo, adesso a Natale è un po' più complicato, però possiamo provare piuttosto a mettere in atto delle strategie pseudo dolci. E allora magari prendere il pane con un pezzo di cioccolato ovviamente fondente potrebbe ricordarci una colazione dolce, che altrimenti potrebbe essere il pane e con la marmellata e tutte le varianti dei biscotti dolci che ci piace consumare a colazione. È importante capire che il nostro corpo va educato, è come un bambino, se lo educhiamo a mangiare in modo sano richiede quello perché sta bene. Se ovviamente lo sottoponiamo a degli stress metabolici continuamente non capisce più. Sì, va un po' in tilt, certo. E quindi anche la fame si innesca. Se io mangio bene a colazione, la risposta a metà mattina sarà quella di non avere fame. Se io mangio male a colazione, avrò fame a metà mattina e quindi non arrivo direttamente al pranzo, ma mangerò di più a metà, appunto, come snack a metà mattina, certo, qualcosa di ulteriormente dolce. Una colazione che potrebbe funzionare un po' per tutti, che la propongo sempre, è quella del pane con l'olio. Il pane qui rappresenta il carboidrato, ma un carboidrato che comunque cede un pochino più lentamente gli zuccheri che contiene, e ci metto un grasso. Ecco qui un'altra claim, se me lo consenti, che dobbiamo portare a memoria: il grasso non ingrassa, ma i grassi sani ci salvano, in quanto li possiamo combinare in modo intelligente con quello che mangiamo. Allora, una colazione dove in tutte le varianti e le declinazioni che vogliamo fare viene consumato un grasso sano che attiva la funzione anche epatica in modo intelligente, per esempio l'olio extravergine, ma potrebbe essere anche un pugno di olive, una manciata di mandorle, oppure tutte le declinazioni, dicevo prima, possiamo fare una crema di mandorle o comprarla, perché adesso è facile trovarla. Riesce ad aggiungere al carboidrato una soluzione che attiva la funzione epatica, dicevo, ma non fa stressare, uno stress alla funzione pancreatica producendo troppa insulina. E che cosa guadagniamo? Che siamo sfiammati, non abbiamo fame, arriviamo a pranzo senza troppo appetito, e in questo momento pieno di gastriti e di problemi intestinali il pane con l'olio è un tocca sana. Se ci fosse un rimedio, un medicamento, è proprio quello, l'olio extravergine d'oliva su un pezzo di pane, magari anche un po' raffermo. Dottoressa, quindi senza accorgercene arriviamo a pranzo. Anche qui l'abbinamento fa la differenza. Assolutamente. Perché a volte, dottoressa, noi sentiamo, e voi tutti i medici che vi occupate di alimentazione, ci dite che è importante mangiare tante verdure, le 5 famose porzioni di frutta e verdura, meglio più abbondare nella frutta, nella verdura che nella frutta, quindi almeno 3 di verdura e 2 di frutta, ma non basta, come lei racconta nei suoi libri, mettere insieme verdure così. Bisogna anche lì scegliere quelle giuste, perché la verdura nell'immaginario collettivo sono gli alimenti che ci fanno sempre bene, ma anche in questo caso meglio abbinarle con giudizio. Perché, dottoressa? Innanzitutto le verdure portano delle informazioni, quindi anche come le cuciniamo fa la differenza. Se io faccio un broccolo bollito, un broccolo direttamente stufato in olio, cambia sicuramente il destino terapeutico, se ce l'ha, dell'alimento, oppure lo perde. E il mix di verdure che io non consiglio nemmeno per i bambini, per i lattanti, sarebbe da evitare, perché il mix di verdure soprattutto bollite in un minestrone, a meno che ci faccia impazzire il minestrone, serva ben poco, ha perso tutto e soprattutto rende molto complessi i processi digestivi, sia per i sali minerali sia perché è un brodo caldo, è vero, ma ahimè pieno di minerali e sostanze che ormai sono andate perdute, quindi la funzione digestiva non è migliorata. Altro problema è quello di voglio dimagrire, mangiando un mix di verdure, ecco, quella roba lì non funziona, perché un misto di verdure che magari sono anche zuccherine, prendiamo, non so, la melanzana, il peperone, la zucca, il pomodoro, non è che grigliate insieme raggiungono l'idillio di un pasto light, anzi, quello è un bluff del light, se vuoi me lo concedi, perché un mix di verdure non fa altro che apportare gli zuccheri comunque, in una persona che magari si sarebbe anche mangiata molto più felicemente un piatto piccolo di pasta e una buona verdura ripassata. Quindi l'idea di prendere una verdura soprattutto grigliata e mescolarla insieme a un minestrone pensando di ridurre i carboidrati, il carico che mangiamo, sì, può funzionare se mangiamo davvero poco, ma non funziona quando il metabolismo ha un problema. Allora è meglio un nuovo altecamino con un bel piatto di carciofi crudi. Buono. O anche con una buona mozzarella. Perché no? Diciamo, il formaggio spaventa un po' tutti, è grasso. Gliel'ho detto apposta, perché però, dottoressa, dipende dall'abbinamento. Assolutamente, diciamo, il formaggio, se lo riconosciamo come un alimento che non è buono o cattivo, ma sicuramente ha un effetto sulla funzione biliare di rallentarla, perché i grassi saturi non attivano il flusso biliare, quindi se io lo contrasto, se vuoi, e quindi abbino vicino una verdura che invece stimola, attiva la funzione biliare, che vuol dire il flusso della bile che deve raggiungere il nostro intestino ed educarlo a funzionare bene, ecco che risolvo, se vuoi, questo problema di disfunzione. Che ci metto accanto? Se io faccio una mozzarella con vicino radicchie ferri, i carciofi crudi di cui parlavo prima, le puntarelle che sono di stagione, sicuramente rendo più facili i processi digestivi. Se invece l'abbino con una verdura che può essere, non so, la zucca, o vicino alla mozzarella, magari come in questo periodo, metto poi un primo piatto perché la considero un antipasto, il problema si pone, ma non tanto calorico, dimentichiamoci di queste calorie come primo diciamo obiettivo, primo problema da risolvere, ma non funziona perché rende difficile la gestione del pasto a livello proprio organico, quindi i nostri organi non ci seguono più. E siamo noi che facciamo la scelta, è come vestirci, o come dicevi tu, come scegliere delle note, siamo noi a creare la melodia, non è qualcosa che avviene casualmente. Ogni giorno davanti al piatto dobbiamo scegliere quello che appunto è meglio, è opportuno consumare per il nostro benessere, per una salute long term. Dottoressa Farnetti, io la ringrazio per essere stata con noi, torni presto a trovarci. Ricordo il titolo del suo libro, Le ricette funzionali. Dottoressa, a presto, buona giornata e buona domenica. A grazie. Voi, grazie. E di abbinamento in abbinamento, ma che acquolina in bocca. Tra l'altro voglio ringraziarvi perché la scorsa settimana vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri menù domenicali e avete risposto proprio in un modo meraviglioso, generosissimi, un menù più bello dell'altro, che allora quando parliamo di menù parliamo di gusto, parliamo di salute, e noi non possiamo fare a meno di invitare il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti, siamo a tavola. Allora, e qua si mangia. Sandra su Facebook ci scrive: noi oggi, che era in realtà ieri inteso domenica scorsa, polpettine con macinata di vitello e ricotta, contorno piselli. Che dice il nostro medicuoco quasi cuoco? Si poteva aggiungere o togliere qualcosa? Ma direi l'abbinamento. A me piace. Carne, l'abbinamento carne-latte è un abbinamento che da un punto di digestivo è un po' importante, ma va benissimo in un giorno di festa, proprio perché dà morbidezza e dà una consistenza che ci vuole nei giorni di festa, e quindi da questo punto di vista è sicuramente un abbinamento corretto. I piselli usati come proteina in più e quindi usati come contorno sono ugualmente un ottimo abbinamento per un giorno di festa. Usiamoli invece come vero secondo piatto e quindi vicino a una pasta o un riso nei giorni, nella vita di tutti i giorni. Qualche spezia o qualche erba, secondo me, in questa polpettina potrebbe dare quella spintarellina aromatica in più, quindi magari un pochino di maggiorana fresca, un pochino di timo fresco nell'impasto può dare quella curva gustativa che va un pochino quella più curva, verso l'aromaticità. Mamma mia, la curva gustativa. Tra l'altro, dottor Erzegovesi, se si vuole sostituire la ricotta, lo si può fare con il pane cotto nell'acqua, nel latte? Assolutamente, pane ammollato nell'acqua, nel latte. Se volete dare una cremosità, una morbidezza maggiore, usate tranquillamente il latte. L'amido comunque crea una sorta di reticolo che poi gelatinizza e quindi tiene insieme bene la polpetta e va assolutamente bene, alleggerisce l'impasto e quindi insomma ne possiamo mangiare un paio in più. Denise su Facebook: tagliatelle all'uovo condite con pomodoro e basilico, un classico, insalata mista, mandarini, uva, biscottini con semi di zucca e una bella tazza di caffè. Direi quasi tutti i giorni, nel senso pasta all'uovo, pasta all'uovo giorno di festa, facciamo una bella pasta all'uovo bella carica, quindi insomma se dobbiamo fare la pasta all'uovo mettiamoci l'uovo, i tuorli, quindi per farla bella carica. Lei quanti tuorli mette? Giorno di festa io faccio 100 grammi di farina, un uovo come base e poi ogni tre porzioni, cioè ogni tre uova o 300 grammi di farina, ci metto un tuorlo da solo, così per caricare un pochettino. Tanto per dirla. No, perché qua dobbiamo fare il quasi cuoco, no? Sennò se facciamo solo il medico. Quindi tagliatelle all'uovo con l'uovo. Quindi tagliatelle all'uovo, siamo sul piatto unico nel momento in cui una tagliatella. Infatti ha detto testosa. Pomodoro e basilico, ci sta? Benissimo. Pomodoro e basilico, mettetelo dove volete, fa anche un po', possiamo dire, da antidoto a quello che può essere il potere del grasso saturo che ci può essere nell'uovo, e quindi in qualche modo i carotenoidi del pomodoro vanno benissimo, quindi approvato. Poi pomodoro cotto, licopene, la nicola anche oggi. Annaggia. E poi insalata mista, non abbiamo notizie di questa insalata mista, mi sembra buttata un po' lì, attenzione. Andiamo sulla stagione, un'insalata mista, chiaramente siamo ormai verso l'inverno e quindi facciamo un'insalata mista che comporti la presenza di varietà invernali di insalate, quindi di foglie verdi, sono tantissime. Mettiamoci, stanno venendo dei cavoli meravigliosi e quindi mettiamoci un cavolo tagliato finissimissimissimo dentro un'insalata mista. Meravigliosa, ci fermiamo, il nostro medicuoco quasi cuoco resta con noi, abbiamo altri menu, ma poi dobbiamo naturalmente rispondere alle vostre domande di adesso cosa mangio. 335 830 4306, se volete una risposta dai nostri esperti, oppure obiettivo salute @radio24.it. Stia lì. La bufala in tavola. E oggi andiamo a casa di Sara che ci ha scritto. Intanto siete alla Bufala in Tavola, buongiorno, insieme a noi c'è il dottor Stefano Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, con cui commentiamo i vostri menù, i menù della domenica che ci avete mandato sui nostri social. E allora, dottor Erzegovesi, andiamo da Sara. Crema, qua Sara qua vuole vincere facile, crema di fave con cicoria, piatto pre... Anche... Una goduria, ma per la salute, ecco, oltre che per il palato. Preso in prestito dalla cucina pugliese ed importato in Romagna, e quindi mi verrebbe da servirla su una bella piadina. Perché no? Perché no? Ecco. Ecco, fave e cicoria è uno di quei piatti che nella loro semplicità sono una meraviglia da un punto di vista della salute, perché la cicoria, con tutte le sue componenti da foglia verde scuro, e quindi componenti che sono antiossidanti, ma sono contemporaneamente facilitatrici della microcircolazione arteriosa. Quindi, passatemi il termine, sono un po' afrodisiache le foglie verde scuro, proprio per questo effetto. Ma cos'è che avete oggi? Anche il professor Cirino, già dall'altra domenica, il peperoncino, afrodisiaco, afrodisiaco, anche un po' lo zafferano, adesso lei le foglie verde. Che cos'è che vi sta prendendo? Non so, è il periodo. Bisogna raccontare le verdure, bravo, i vegetali, quindi benissimo, anche il peperoncino e le spezie, in una dimensione che proprio è l'antitesi delle verdure, sì, fan bene, ma che noia. No, altro che noia, sono allegre, sono afrodisiache, quindi insomma sottolineiamo queste caratteristiche. Va bene, bisogna sceglierle e naturalmente cucinarle bene, ma il dottor Zegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, ci insegna a farlo. Quindi Sara ha scelto bene, ha scelto benissimo, ma anche tutti i giorni, fave, cicorietta, tutti i giorni, diventa un piatto assolutamente completo anche in termini di proteico, con una fetta di pane casareccio, visto per stare in Puglia ci mettiamo un bel paio di manciate di orecchiette. Dottor Erzegovesi, dopo aver commentato i menù delle nostre amiche, si prepari a rispondere alla domanda che abbiamo selezionato per l'appuntamento di oggi e abbiamo inserito nel nostro spazio adesso cosa mangio. Ricordate, 335 830 4306. Insomma, c'è chi invece che fare abbinamenti vuole fare, come a dire, dei saltamenti, perché ci scrive Davide chiedendoci che cosa ne pensano i miei esperti della dieta mima digiuno, o meglio, Davide ci scrive del digiuno intermittente, così intanto cerchiamo di capire se i due termini sono sinonimi o se invece si tratta di due aspetti diversi. Digiuno intermittente e dieta mima digiuno sono la stessa cosa? Sono due categorie differenti, nel senso che la dieta mima digiuno è uno dei modi per fare un digiuno intermittente, ma la categoria del digiuno intermittente è molto più vasta, e quindi dal semplice mangiare un po' prima la sera, che può essere una forma assolutamente valida di digiuno intermittente, al non mangiare o mangiare pochissimo per 5 giorni al mese, che è quello con cui si intende normalmente quando si parla di dieta mima digiuno. Però in tutti i casi la questione è, rispetto al digiuno nella sua accezione troppo sacrificata di astenersi da qualsiasi cibo, bevendo solo acqua o liquidi non zuccherini per uno o più giorni, si tratta di intervallare un mangiare poco, quindi non necessariamente niente, con un mangiare normalmente. Quindi, dottor Erzegovesi, il suo punto di vista sul digiuno intermittente? Il digiuno intermittente in questo momento utile se ne parla molto, però... Sì, utile a e a chi? Con quali cautele? Premessa, il digiuno intermittente può diventare a tutti gli effetti un atto medico, quindi qualsiasi cosa che non sia il digiuno cosiddetto 12-12, dove per digiuno 12-12 si intende io finisco di cenare alle 8 di sera e faccio colazione alle 8 del mattino, quindi 12 ore di finestra temporale in cui mangio e 12 no, questo lo possiamo fare tutti e sicuramente ci fa benissimo, perché modifica i nostri ritmi biologici e quindi riposiamo meglio, abbiamo un metabolismo che rimane un pochino più depurato la notte e quindi sicuramente riusciamo ad avere un metabolismo più svelto, quindi che consuma di più, abbassa i livelli di infiammazione cronica e quindi in questo senso è sicuramente un promotore di longevità e un preventivo rispetto a tutte le malattie del mondo occidentale. Detto questo, però, attenzione sulle forme di digiuno, invece quelle più intense, perché chiunque prenda farmaci o chiunque abbia un qualsiasi tipo di patologia, sempre comunque prima parlarne con il proprio medico, perché la modifica dei ritmi biologici, ma soprattutto la modifica del modo di assorbire le medicine, se io digiuno, può essere importante, e questo può comportare dei cambiamenti che vanno prima previsti col nostro medico. Quindi, dottor Arzegovesi, come suggerimento, che è valido per tutti e possiamo dire che porta beneficio a tutti, è intendere il digiuno intermittente come quello spazio temporale di 12 ore tra la cena e la prima colazione, giusto? Sì. Questo rientra... Finisco di cenare, ceno un po' prima, finisco di cenare un po' prima e lascio almeno un paio d'ore da quando ho finito di cenare a quando vado a dormire. A questo punto tutti quei meccanismi di autopulizia cellulare che funzionano a livello sia di cervello sia di cellule del resto del corpo nella notte funzionano in maniera molto più efficace e quindi chiaramente questo ci fa comunque guadagnare, ecco, salute. Per tutte le altre formule e modalità bisogna sempre parlarne con il proprio medico. Io direi sì, così, è giusto? Assolutamente sì. Dottor Arzegovesi, ci porti a casa sua, che cosa mangia? Così invitiamo anche le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando a scriverci che cosa stanno preparando oggi, perché noi poi domenica prossima commenteremo gli abbinamenti, i piatti, le ricette, con naturalmente sempre, no, un occhio un po' al gusto, tanto al gusto e anche alla salute. Lei che mangia, il nostro medicuoco? Ecco, mi sono arrivate delle cime di rapa meravigliose. Meravigliose. E quindi farò una orecchietta fatta da me, una cosa che io amo fare la domenica con i miei figli, a tirare con le dita le orecchiette con la farina di grano duro. E quindi farò che un'orecchietta bello. Fatta in casa con le cime di rapa ripassate con ovviamente aglio, quindi puzzosità senza aglio. Problemi, siamo domenica, olio peperoncino, un po' di olive, un po' di capperi, ricordiamoci il cappero, attivatore tramite la mirosinasi del sulforafano, che è la parte più nobile dei nutrienti della cima di rapa e quindi ancora più potente come effetto salutare, oltre che molto più buono. E insomma siamo ritornati da dove siamo partiti, aglio, olio, peperoncino e capperi. Potete andare a riascoltare la puntata. Grazie al dottor Arzegovesi per essere grazie stato a con noi, a prestissimo. A Gianmarco grazie. Ferronato in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Che dire, buona domenica, ma ci sentiamo domani alle 6:15 che iniziamo insieme la settimana. Dai che ce la facciamo. Buona giornata, buona domenica.